Ehi, vado in un sacco. Era far prove, praticamente è tutto uno schifo, dai, niente da fare, non ne vale la pena. Vabbè, quello che faccio? Era un po' senza sentirlo a Antonello, salutamo. Marco Dubbia Vivi, buonasera Gabi. Come Gabi, buonasera. Ciao Antu. Ciao Gabi, no, qua non se ne capiva nulla perché... Boh, è lungo da spiegare. Praticamente c'è un apparato portatile che prende colpi più di tutti gli altri messi assieme. L'altro trasmette ma non riceve, l'altro riceve e trasmette. Alla fine a noi vale. Ci vuole, qual è la logica? Ci vuole l'antenna sul tetto, non sul terrazzino al piano rialzato. Buonasera. Vabbè, ma tu sai benissimo che gli splatter che ci sia, se li tenga, sono come i dolori. Qua è il problema dell'antenna, antenna in basso, non adatta, multibanda, quindi fa come le discone, come ho detto prima Giulio, fa tutto e non fa niente. È normale, se metti l'antenna, quello che ci vuole, sul tetto, cambia totalmente. Ma boh, signori, io vi saluto, sono entrato a salutarvi, che mi sto spostando. Ciao Tino. Ciao a tutti, ciao ciao, buona serata. Mi ha pomponi, omi. C'ero anche poco fa, solo che poi abbiamo fatto le prove con Marco. dall'altra parte, quindi adesso ho ripreso col baracchino, con l'LMS 200. Ma perché sei così basso, Antonio? Sto usando l'LMS 200 del tuo vicino di casa. È mio, me l'ho preso io. Del mio vicino di casa chi sarebbe? Nome e cognome? Lo sai, Antonio. Ma riserva? Ma cosa per riserva? Antonio Delta 1. Ah, ok, ok. Va bene, ci sentiamo. Ciao, divertitela. Tu sempre in forrogenesi. No, il foro Giuda no. Tranquillo, ciao, che te bello bene. No, mi sono piegato tutta la trasformazione in pratica, no? Non è rimasto niente, quindi c'ho tutta la roba sua. L'LMS 200, la BA27L, l'alimentatore, tutto. Va bene. Babbo, dai, riprendi anche tu. Lei a capo, mi adesso sto telefonando, sto un attimino. Io so che no, che comunque sono qua. Fai il monitor, capito? Ah? Marco? Dimmi tutto. Ah, pensavo che c'era qualcuno sotto modulando. Dopo gli attacco lineare questo paracchino. Lo spirito ci tiene di attacco. Ehi, ebbene, avete risolto il problema dello smitter? No, quello lo faccio... Non ho avuto tempo, sono impegnato con Simone, ho capito? E quindi non ho avuto tempo di niente. Adesso lo farò domani, lo faccio, lo smonto e ci metto l'altro. E così... Tanto riguardamente a quello del FM500S, meno male la ce l'ho. Mi aveva detto, Tino, mettimelo da parte, e non c'è mai venuto a prenderselo. E quindi adesso li metto, e così ce l'ho, è a posto l'apparecchio. Eccomi, sono rientrato, che ero al telefono. D'accordo. Ebbene, Antone. Dimmi. Eccomi qua, sono tutta orecchie, che stavo chiamando. Allora, tra un po' alle 7:30 devo dare l'antibiotico al bambino. Allora già va bene, peccato, che va bene, ma adesso vediamo un po', domani. Cappa. Scusa dita, Avanti Marco. Vai, Bonfoglio. Bonfoglio, mi senti? Ho capito. Ma lo senti a coso? Io sento forte e chiaro. Ma non mi viene a Cristian. Cristian chi? Quello di Alghero? No, di Sassari. Budi, al fratello di Antonio. La verità non l'ascolto, sento che riesce, cioè che modula però non capisco le parole, invece quello di Alghero l'ascolto molto bene con la Fayette. Antonello, mi senti? Adesso sì. Ma fumare, dai buonasera a tutti. Ma ti ascolto, ti sento. Cappa. Ma tu devi contare che io se attacco i 140 manco molto lo sento. Con questa nuova fagliette qui c'è l'NL e l'NB, l'ascolto benissimo, capito? Il 2009 5 RM ne prende, però è molto più sordo, questo è un pochettino più sensibile come apparecchio. Funziona bene, no? Mi devo ancora abituare, tu figurati. Bravo, abituati allora. È vecchiotto, ma funziona bene, Cristian. Questo è degli anni 80, mi pare, se non mi ricordo male. Ehi, 85, dai, il tuo più o meno. Avanti Marco, la cosa? Ehi, che è degli anni 80, quell'apparato. Già funziona. sa, la, l'unica cosa di buona è che ci puoi pilotare un bel lineare, perché passi da 5 a, aspetta, fa cuffia, ragazzo, già era giusto, ecco, potenza media e potenza bassa. Io sono 5 abbastanza attaccati, boh, sono piccolino. A Finlandia sotto casa. Ma se sono a Ponte Nuovo io. Sei un bel ponte, sì. Lo so, sono piccolino. Non si dire caldo. Piccolino, ma se sei tu che di vita hai giocato, la matta di Nivaria. No, stai mangiando, non si dire caldo sotto, capito? Un bel ponte, sì, un bel bel ponte. 747. A voglia che già pompa quello. Pompa sì. Ma se non ci sono stazionari non dovrebbe scaldare. No, ma io non sono stazionario, se no caldo, cosa si dire? Stai tranquillo. Scappa. Sì, come sempre sotto casa, sempre. Adesso sono staccato, eh. Dai, ma niente, consegna, dai. Ah, consegna la pizza, eh? Eia! Mamma mia. Te l'ha già fatto, Bruriso, che fa caritare. Ma no, mai più. Sono stato in silenzio, dai, cosa faccio due secondi? Vai, vai a consegnare la pizza. Cosa vuol dire? Manco 30 euro alla dica, prendo in benzina. Ma non mai usato la moto, no? Guarda, questo è il ma non esiste, no, non posso stare correndo. E tu che nemmeno un godo. Marco, l'hai visto l'altro giorno? Se l'ho visto io, la verità. Uno scemo, allora, c'ha il cassone e poi la cabina aperta da una parte all'altra, e il vetro davanti, consegna roba della BRT, mi sembra che, se non mi dico, ho letto male, è la verità. Cazzo. Si stanno organizzando adesso. Anche la GLS ce l'ha, capito? È coperto sopra, è coperto davanti, cioè c'è il parabrezza e i lati aperto. E dietro c'è il cassone con la roba. Ehi, ma se ne arriva una passata di vento lì a Ponte Nuovo, lo sai dove ce lo trovi? Vabbè, ma sono mezzi per fare consegne veloci. Certo, se c'è anche pioggia, che ne so, latera con vento laterale, ti bagni lo stesso. Ehi, basta che lui passa lì, o a Ponte Nuovo, via Milano, lui è fregato. Perché con vento lo corica intero, lo corica come un coso, perché sono leggeri, capito? Le mezze di molto leggeri sono, poi sono, vanno con la, sono elettrici, capito? Sì, anche qua ce le hanno elettrici. Certe sono addirittura, poi hanno addirittura qua vicino la tipo bicicletta con pedalata assistita. Cioè tu gli dai l'impulso col pedale, lui elettricamente ti dà l'aiuto, e dietro il cassone con i pacchi e pacchettini, dai. E quello è venerante, l'ho visto già li ho visti già, per carità. Poi hanno il telefonino, devono fare la consegna entro quelle, deve avere 5-10, massimo 10 minuti per poter fare la consegna a uno, con un'altra consegna all'altro, se sgarrica, in pratica te tolgo lo soldi, ma tipo schiavi. Comunque Antonè, per il discorso di prima, si è notato, ricevitore ti ricevevo, con l'auricolare ti ricevevo, però quello che credevo fosse il migliore come ricevitore, il Polmar Digital Work, che tu conosci bene, niente, con l'antenna esterna prende un bel colpi, un bel, perché te non ricevo, ti ricevevo basso e boh. Peccato, è quello che ritenevo migliore, invece è il peggiore, a livelli di V5R. Sì, ma tu devi contare che c'hai i ripetitori sifili, capito? Quindi della team, adesso col 5G che c'è vicino ti viene un pochettino male, capito? Avere una buona ricezione, quindi ci vuole davvero dei filtri più che altro per poter, per non avere problemi. Sì, Antonio, riprendi, tu cosa stavi usando prima per le prove? Si chiama un Aragon si chiama. Ah, ma è quello che mi avevi mandato quella volta. Sì, è sempre lui. Sì, dovrebbe essere 4 in UHF e 5 in VHF. Questo non l'hai visto cosa sto usando adesso, no? Cosa stavo usando prima? È la stessa roba del Baufeng, è carino, mi ha raccolto. L'ho comprato dai cinesi, l'ho comprato. Ma quello marca Enrico, Enrico, una cosa del genere. Aragon c'è scritto. Una roba del genere. Aragon. Ma come si chiama? Ehi, Antonio, riprendi un attimino che prendo il cellulare. Però mai i cinesi ce l'hanno queste cose. Spento che stavo prendendo il cellulare, dimmi. Ho detto che ce l'hanno, questo così come c'ho io, ce l'hanno quei cinesi che ci sono a Pradanieta, dove c'è Portobello, capito? Sì, sì, sì. Poi quei portatili c'era anche Muraia. C'ha sia quelli con la tastiera e anche quelli senza. Io ho preso quello. La Muraia hanno convinto, ho visto solo quelli senza. Invece da loro ho visto che ce l'avevano, l'avevo comprato perché io c'era guastato. Capito? E funziona bene, Mina. In VHF li sento bene. Ti mando una foto, Antonio. Manda. Ma tu vieni in bagno a farlo. Ehi, vai pure. Chi sei rimasto qua? Ok. Io faccio mai sbaglio, cazzo. Ho attaccato il Gigetto. Adesso lo faccio scaldare, vediamo un po'. 5 watt tondi so. Ehi, Antonio, ho dovuto interrompere. Passa in FM un istante solo. Aspetta. Ecco, dimmi. Un atto di lusso, ho dovuto interrompere perché le scrivo l'immagine a mamma, capito? Perché Antonio è proprio attaccato a quella televisiva e quindi non può smettere di riprendere su. Ah, ecco. E pugnata, mi è pugnata. E lì tutto a mezzo metro, capito? Ma questa cosa, con l'antenna Sirio CX440, non succedeva. E dava alla medesima distanza. Ho capito. Vabbè. Cosa vuoi che dica? Allora, dici. Chiama tu, ciao. Saluta a tutti, ciao. Ehi, adesso sono in AM di nuovo, eh. Ando, stai chiudendo? No, sono rientrato, mi ha salutato il bambino. Saluta. Ciao Pupo, ciao. Antonello, vai per i saluti. Ehi, ciao, ci sentiamo. Ah, chi sta chiedendo? Cazzo, 5 volte mi dai una M, 10 me ne dai una FM, non me lo racconto. Sbagliato. Ehi, Anto, guarda le foto. Ora guardo. Adesso che lo so che pompa questi watt qua, il coso, mi cerco lo schema e gli aumento il watt in trasmissione della M, gli aumento. Questa parte. Cazzo. È piccolino, sembra un portatile, sembra. Aggiungi più mano, è più grande il microfono che la radio. Ma bella. Ma bella adesso è una parola grossa, però è l'unica con cui potevo ricevere e parlare con Pomponio, perché le altre non ricevevano. I portatili non ricevevano, prendevano battimento. Altre immagini. Tu sei un cinese, no? Sì, sì, tutto cinese qua, che poi sa cosa c'è dentro. Quella che vedi, la buca, allora il display, se tu vedi il display capisci che radio è uguale al tuo. E dentro c'è un UV5R, dentro quella buccia, però con un finale più potente. Tutto lì. Vabbè, costo, lo dici, il privato. Ah, il prezzo? Ma non lo so, perché quello è un modello di vari anni fa, c'è da molti anni, non so quanto possa costare adesso. 60 euro, 60, 70 euro forse. Aspetta che controllo. Cosa di più portatile? Aspetta. Allora. Aspetta. E la 70 watt, come sto scendo? Tu e l'Antonio. Ah? La matta di nevaria, se tu chiede di me c'è tu chiede. Ecco. Questo è dell'MS200. Adesso sono in 80. Aspetta, adesso scendo di watt, di pilotaggio. C'è il pulsante, ecco, adesso sono a 45, 50 per esattezza. Così sono a 20, 20 watt, 50, 80 a picchi positivi. Adesso me lo porto già. Lo specchio che è una bomba, ragazzi, questo apparecchio. Deluxe est. Sì, tra praticamente tra 9.20 e 9.25. Cioè va bene, adesso domani ricambio il sistema lo Smith. Tanto ce l'ho, cazzo, poi piano piano che sta scaldando sta salendo, cazzo. 85, questo arriva fino a 100, te lo dico io. E se mi metto il microfono amplificato guai. La bombetta, già non sai l'unica cosa che c'ha di brutto, sai cos'è? È una fesseria quello a farlo. Allora, mi devo fare dove c'è il PLL e il quarzo, lo spostamento di 5 kHz, perché i russi parlano in canali in frequenza pari. Io c'ho solamente il canale per ascoltare, no, per trasmettere, quindi mi piazzo con la modifica, mi piazzo e vedrai tu la scena. Mi metto la mano qua dietro, mi metto, così almeno posso fare lo spostamento da in pratica da 15 a 20 e di più pure, anzi 25 per esattezza. Così almeno posso tranquillamente trasmettere in frequenza pari. Gappa, tu devi parlare un po' più vicino alla bocca, se no non ti sento. Si è abbassato molto la radio, si è abbassato. Sì, sto usando il microfono normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beh, ora fa molto bene, va. Lo so. Adesso mi piglierò un microfono amplificato palmare per questo apparecchio qua, uno di quelli da coso, da fusaro, me lo prendo, se lo trovo mi piazzo uno di quelli. Mi pare che la fusaro sono per danneggia, io se no boh, lo dirò da fuori, cosa vuoi che dica io, tanto su Amazon mi sembra ci sono microfoni amplificati. No, di uno me lo faccio arrivare, costeranno 20-30 euro, ce ne sono quanti di voi, tipo quelli che si usavano una volta della Intec con la batteria da 1,5, mi vanno bene anche quelli. Gappa. Ma già, no, adesso va bene, c'è anche Midland, c'è perché ha preso la GBC, c'è anche la 48, l'hai visto? Sì, l'ho visto, vari apparecchi in giro, anzi ne ho visto due che stavo vendendo Luca Filmer. Uno è l'Indicon portatile, quello che usava Tonino a rompergli le palle a Natalino. Poi c'era un microfono amplificato nero che usavo io, che avevo regalato. C'era di roba in giro. Cappa, sì. Comunque la 48, sempre la 48. Me l'avrei voluto prendere quello nuovo per provarlo, vedere come va. Sicura dice che prende meno colpi di quello vecchio. Non lo so, io colpi qua non ne con questa parete non ne prendo, eppure dentro c'ha la, lo stampato delle, del multimone, c'ha, in pratica questo raffagliente, figurati tu, quindi strano, ma non per gli accolti, anche il multimone te era proprio, per carità, voleva pigliato e buttato dalla finestra. No. Taglielo, non c'è problema, già siamo qua. Ah, di Marco. Eia, comunque andò 82 euro, 82 spedizione compresa da AliExpress. Ti dico il pacco di più portatile. Vabbè, AliExpress risparmi un bel, risparmi su tante cose, se lo compri in locale lo paghi di più, ma non ne vale la pena. Secondo me sono troppo usato, meglio usato, perché non mi pare per una pena, per come si stanno uscendo le cose. Poi mettendo una roba del genere, io preferirei mettere un'antenna su direttamente, perché non posso mettere una cosa del genere. Sì, infatti, guarda, se non hai troppi metri di cavo, io avrei 50 metri di cavo da mettere e ti dà troppa perdita in UHF, troppa, inaccettabile quasi. No, io tutti quei cavi non ce l'ho, se no pigli un metacurgatore, l'accordo, per quella banda, vorrei che già riesci. Sì, pensa che con Antonello abbiamo usato anche col portatile la BA27L, ci abbiamo usato in PMR l'antenna del baracchino per brevi passaggi, no, se no bruci finali, però ci sentivamo. Sei d'accordo ma lo stesso? E che accordatore non ne ho più, purtroppo. La Mercury, quella di Giovanna, sa come ti suona bene, grazie. Ma se devi fare quei radiali, alla BA27L e funziona benissimo in 4.33, perché l'avevo già provata io. Avevo staccato la X200 perché era in corto, ci ho messo la BA27L, la Mercury mezz'onda. Cazzo, ma lo sai come sparava, cazzo? Tutti sentivo, tutti quanti. Ah, qualcuno mi sta mandando un messaggio, c'è qualche apparecchio da vendere evidentemente. Ma guarda che se metto un accordatore, se io qua metto un accordatore c'è un bel problema. Anche con questa che abbiamo noi, cos'hai in più? Radiale, cioè l'accordi appena appena è pompendimi. No, però anche tu il problema è che. E come fai? Cioè non è l'accordatore della 27, servirebbe un accordatore UHF e non so nemmeno se esistano. E allora quello ti costa però l'ira di Dio, ti costa più del baracchino, del portatile, dell'antenna, di tutto messo assieme. Addirittura. Era fermo 2 anni questo mi, quello su questo con cui abbiamo parlato, 2 anni fermo. Figurati. No, io già le uso sempre gli apparecchi. Tanto che quello Jay Seng, come diavolo si chiama, quello cinese, in trasmissione esce ricezione, cioè l'audio non me lo dà nelle cuffie, tantomeno nel, come si chiama, nell'autoparlante, però in trasmissione esce perfetto, è una bomba. Esce decimato l'uscita, ma me lo prendo nuovo, se la prendo un veicolare da 10 watt, 20 watt, quello che è, già va bene. Certo, che c'è. UHF e HF. Ah, mi dite 69 euro. E boh, no, no, no. Ce n'è roba, ce n'è. Oh, via. Soldi ci vogliono e basta. Allora, dai, ve lo beh. Spicci, spicci. 90. Come lo dici? Perché sono diversi. Ma mamma mia. 90 watt. Stazionari, cosa c'è io? Riesce bene? 1,3 e 4. È giusto, anche perché la misurazione per avere, come si chiama, deve essere 76 centimetri. Ma è giusto, ma non è questione di 76 centimetri, cioè io. Adesso sono 95, tutti tutti. Cappa, chi è che è entrato? No, ero io, ho detto io non lo sento Antonello di radio, è troppo basso, saturo, Antonello. Siamo vicini, inutile attaccare, dai, ti mangia tutta la radio. Cappa, sai che vado a dare l'antibiotico al bambino? Oh, dove te è staccato. Ah, che meraviglia, che bello così. E se metto il microfono amplificato, cazzo, succede come l'altro giorno, è strano che l'altro giorno mi aveva fatto quel difetto lì, usciva una bomba come amplificazione. Non saprei, ma non te l'ha più fatto quell'effetto lì, quella... No, so, aspetta che la provo. Guarda per adesso com'è, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bella pompata la modulazione. Bella pompata. E adesso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda un po' com'è. Sta mettendo in croce mamma. Sì, allora è aumentata, però sento anche come un'alternata sotto, una specie di... Perché c'ho... Cioè, l'alimentatore è attaccato alla... Cosa? Ma la chiave non hai malissimo, come l'altro giorno, male, male, non esce più la radio quasi, è tutta un'alternata terrificante. Adesso è tornato normale. Sì, allora quando F10 c'ha problemi, prendo il tubo da balcone, adesso ha poco compresso, quindi già l'ha fatto. Eia, ma era l'F10 o F16 della Midland? L'F16, mi compro il microfono amplificato palmare, me lo come si deve, se la bianco. Già va bene. Dunque ho staccato, i watt sono 10, quindi non è successo niente. Ma apposta, i finali sono... non sono caldi, sono tiepidi. Già va bene. Eia, vabbù. Adesso tolgo tutto questo schifo di radio, di Rosmet, di cavi, per carità. Levo tutto. D'accordo, d'accordo, leva tutto, leva tutto. No, come si suol dire, il gioco non vale la candela. Cioè, o l'installazione, vabbè, è fissa, se, ma per stare attacca e stacca tutti i giorni non conviene. Vabbù. Antone, gira, gira, che ora è? Sono le... Ah, ma è presto, sono le 7:30, è 19:34, credo che fossero le 8:30. Ah, è presto, sono andato dentro il spirito. Aspetta, stamattina, stasera, quindi. Adesso via, fa 5 minuti scaldo la cena a Simona, la scaldo anche io e poi sono a posto. Mia Basel Ponte. È lungo, come messaggio che manda. Quello gli imbara. Sì, comunque riceve, grazie a Dio riceve questa radio, ma riceve meglio di quel cavolo portatile, per carità. Vabbè, buono a sapersi. Questo è carino come ricevitore in macchina, mi. Gli togli il microfono, gli metti quei piccoli sportellini per coprire la RG45, mi, così non entra polvere. Ho capito, c'è un'antenna che sembra non abbia 27L, cazzo, che ha le cariche e poi una specie di teleradiario orizzontale, cioè. Ha un pochettino più, vendo Fositel, quadribanda con radiali caricati, in buone condizioni, vedo cambia progetto, scambio anche con monobanda a 20-40 metri, 199 euro le vuole. Prosistel, ah, la conosco la Prosistel, a me piaceva. Vabbè, se fossi stato radioattore in condominio mi sarei contentato di una multibanda verticale trapolata. E ce n'era una, faceva 40 metri, 20 metri, 15, 10, forse anche 6 metri, ma potevi scegliere se la versione con i radiali filari oppure i radiali caricati. Vabbè, in condominio uno si mette i radiali caricati e si mette l'animo in pace, dove arriva arriva, poi già la propagazione fa il resto. Beh, già lo credo. È un po' come la CP6, la Diamond CP6, che sì, non è il minimo sindacale, siamo al di sotto del minimo sindacale, però è compatta, ti fa le bande principali, amen. E beh, ti ricordo cosa vuoi. Questa telecamera registra 24. Allora, c'è la festa, allora, campo festa 2025, nuova edizione. Sassari, tomocamera, 15-16 febbraio. Cosa c'è, la fiera? Dove c'è la fiera, no, stanno facendo le feste. Il sindaco vuole divertirsi, cioè vuole fare divertire i cattolici, come si chiama, i sassaresi, quindi figurati. Welcome to the future of kitchens. Bella, allora. Fino alla macellaio funziona, ci hanno messo la foto del coso della Meloni in quella barca andata e ritorno, ma più che barca ya lo sai. Per carità, Arisa quella vuole che accetta il palautica. La Meloni, perché non se ne va in Albania, al centro accoglienza? Hanno fatto una cosa che non funziona. Anziché andare a centinaia ne vanno 10 alla volta, 20 alla volta, e poi i giudici italiani li fanno tornare indietro in Italia. Ma questo paese è una barzelletta. Sì, spendiamo un po' di soldi, fargli fare un viaggio e poi dopo mezz'ora, un quarto d'ora, dopo che mangiano ritorna di nuovo a casa. Cazzo, più pensa per il culo così cosa ne vuoi. Tipo la V monobanda 12 metri, completamente autocostruito, staffa in alluminio, diametro 4 mm, lunghezza di 22,93, per l'atto 100 euro ne vuole questo, a Bari. Aspetta, stavo un attimo seguendo, stavo leggendo una cosa. Antone, gira gira, stacchiamo, dai. Cioè, per oggi sono fuso. Dalle 3 pomeriggio siamo in radio. Non tu. Eravamo, ci siamo alternati un po', Giulio, c'era più room, chi altro era entrato a fare queste prove, però non mi ha soddisfatto. Giulia! Ci l'ha un po' dutto. Ciao. Magari abitando ai piani alti, però per quanto buono sia il cavo, cioè se uno si accontenta, Antonello dice no, metti l'RG 58 e aspetta, così gli dai 20 watt, qua e sopra ne arrivano uno forse un watt arriva all'antenna, e anche ricezione mi perde un bel, perde un sacco di decibel, per non dire di Santiaghimi. Allora mettici un altro il cavo, basta che ce lo mettiamo però. Flacca 155 forse un po' meglio. Ehi, ma io adesso sto usando uno spezzone, c'è l'antenna veicolare, no? C'è il cavo suo della macchina, poi c'è il barilotto e un pezzo di H155 lungo 10 metri. C'è non il terrazzino adesso, quella roba lì. Però proprio oggi che volevo fare proprio di ascolto, radioattori in lungo. Vabbè, domenica, che il vento le maestraglie gliene possa portare via tutte le antenne. Io c'ho tutto con H155. C'è una resa molto molto diversa. Sì, guarda, come resa è come il 213, più o meno, no? Qui potrei dire pari, però almeno è più sottile. Quello però è il minimo sindacale. Cioè, se uno avesse tanti metri di cavo per la UHF dovrebbe andare su Boccia, Elflex, quei cavi super pregiati è che li paghi 10 euro al metro. Immagina il conto che ti esce. Ma io non l'avevo pagato molto perché me l'ha fatto arrivare una persona, una bobina grande, vabbè, io ho preso da Fusaro solo 10 metri, aspetta, 10 o 15, poi però ne ho staccato un pezzo da 5 metri perché mi serviva per altre cose, e 10 metri interi li ho lasciati per arrivare all'antenna del balcone, da, il terrazzino. Io a Fusaro H155 non ne ho mai visto. Sì, sì, avrò avuto fortuna, però quella volta ce l'aveva. Però secondo me più le volte che non ne ha, tanto vale ordinare da fuori. Poi Media Globe ha sempre ottimi prezzi. Com'è? Un capriccio al tavolo 12, Antonello è morto. Davvero, stavo parlando con lì. No, sono morto, no, è venuto il cane a chiamarmi per prendere la Simona. No, avevo sentito qualcosa in PMR. Io subito. Un capriccio al tavolo 12, grazie. Sono, aspetta, dovrebbe essere sul 9, faccio controllato, lo dico subito. No, qua canale 1, 0625, una donna che parlava, ma non ho capito di cosa stessi parlando, è troppo bassa, arriva nel QRM. Quello è saggesta, aspetta che ti dico la frequenza e così ascolto. Che bello quel beep, bellino, squillante. Mio? No, Antonello, tu non ne hai beep. Non c'è il beep qua. No, forse va inserito. Adesso? Sì, adesso c'è, è simile a questo. K. Non era disinserito, era. Ti piace il mio beep, di sì. Adesso non mi ricordo se è 446056 o 4460. Piano 68. No, questo è palattino che fa rientra spesso. Meno male, ce l'ho proprio disinserito io. E io. Gira gira, aspetta Antonella, vabbè, aspetto che rientri lui, mi sa che stacca un po', sono un po' fuso, poi rimetto la base magnetica in macchina, la voglio lì disponibile. Ah, al limite possiamo anche entrare se vuoi uscire, 3,50 una bibita, ci facciamo un giro. Comunque non sta parlando nessuno adesso lì, eh? Non lo so, penso di no. Questo sono io. 81, 93, quindi dovrebbe essere... Aspettiamola un po'. Tanto loro aprono verso le 7:30, hai capito? 7:30. Non aprono adesso. Aspettiamo un po'. Per la palla non te lo faccio sentire. Sì, io. Vabbè, Antone, dai che stacco, che sono... Non devo mettere da posto la baronda che ho fatto. Comunque manca l'appello alla base magnetica, una base magnetica, quella grande, non so dove possa essere. Porcaccia la miseria qua. Abbo, tu lo sai che ha dato la roba? No, perché poi è roba che si usa così raramente, ormai, che te ne dimentichi. Anche se la ritrovi e dici, ah, era lì, poi passa un mese, un anno, te lo sei dimenticato. Ah, anche io comunque ci sono da un bel po' adesso. Beh, torniamo a fare andare questa frequenza al massimo. Ancora non sono in servizio, c'è tutte le luci accese. E ancora non sono entrato, quindi entrano alle 7:30. Dopo le 7:30, Marco, ti faccio sapere che frequenza è, così li ascolti. No, tanto è in scansione, se parlano li sento, almeno credo. Se questo bidone li copia, se non prende battimento anche questo. Oh, non lo so. Spero di no. Ehi, c'è troppa RF in aria. Negli anni 80 non era così. Non c'erano cellulari, non c'erano wifi, testamenate qua. Era più pulita l'aria, anche al baracchino te ne accorgevi perché la notte era splendida, non sentivi un filo di soffio. Lo squelcher non sapevamo mai cosa era all'epoca, non c'era bisogno. Figurati. Le saggezze già ci sono, poi sono andato all'esterna e stanno parlando all'interno, stanno parlando, spero che si accende il, come si chiama, led verde ogni tanto, quindi 18 31 43 56 68 81. Fino a niente. Ah già, dovrebbe essere 6, domani come 56. Vabbè, adesso aspettiamo alle 7:30, poi ti faccio sapere. Bene signori, buon proseguimento di serata, io stacco. Magari mi dedico anche alla cena, se no non mangiavo stanotte. Mi raccontato che sto scalando il coso per Simona, la cena, quindi anch'io 5 minuti e poi stacco, poi ci riprendo dopo. E ya, di nuovo ciao a tutti, vai Antonio. Mi hai fatto le facce di un marlo. Ah, ma non ti piace un marloncino? Cena, ciao, ce la risentiamo alla prossima, Marco. Sempre gli uguali, Lascialo giocare, lascialo giocare. Giappa. Ora, c'è un trazionario. Va benissimo, va. Sono perfette adesso. dipende tutto dalla misura. 76 vuole lo stilo, lo stiletto. L'altra volta l'avevo messo 85 io, cazzo. Quando l'ho messo a 0 c'è sceso a 1,1. Invece quando l'ho messo a 7, detto Marino, ho detto mettilo a 76, ho detto vabbè, dovrebbe essere giusto. A quanto mi ricordo io, l'ha messo a 76 e funziona benissimo. No, vabbè, quello è relativo perché non si dice. Veramente, guarda, cioè, avanti il signor che vuole la pipì di giorno. Vabbè, non va, va male, va, l'hai rotto. Allora, no? Se non curi la roba lo sa fare. E a quell'età lì già lo sai, fanno tutti così. Ui. Il nipote era peggio, sta tranquillo. Andiamo alla roba, sbatteva a terra, computer, quello che c'era, portatilini, tutti crepati. Dopodiché che è diventato un pochettino più grande, che ha messo leggermente a testa. Ma era finita a tirare qua casino. Sì, mio nipote sì, grazie a Dio. Vera quasi un anno, vera, no? Ma ho detto che dobbiamo crepare, via. Troppo è durato. Basta questa roba, meno male ti hanno la mano, cazzo, se no, uiaia, sei stato incasinato davvero. Cazzo. Ti sta soddisfando, ti sta questa GPE. Mi sta soddisfando il... Questa GPE, questa antenna. Sì, va benissimo. C'ho poco QRM, ricevo benissimo e con questo l'elemento del 100 è perfetto. La verità. Non perde scariche, non perde niente, è azzeccato per questa zona. Avessi avuto qualche modo così e ci avrei messo la firma. Ma QRM non è prende mo, sono per radiale. No, no, va benissimo per la, questo qua, per la paglietta, anche per il 3009. Per il coso invece c'è un po' di QRM, ma non è, è accettabile, capito? Senti, massimo 7, una volta c'avevo 9, 10 di QRM tutti i giorni, mattina e sera, anche dopo la mezzanotte, figurati. Era impossibile usare i 80, non c'era verso, usciva bene, quello sì, però era troppo sensibile, no? non c'era verso. È l'antenna che prendeva molti battimenti, molto QRM, è tipo l'antenna, perché anche questa qui è molto selettiva, no? Non è così abbruttosa, capito? Io lo so, ma va bene comunque come antenna, la mia, quella di Marco, eccetera, eccetera, sono leggere, ormai non è più periodo di usare la mantova per me, ma ce la faccio salire sopra e ammazzarmi, per mettercela nel palo, l'unica cosa è solo cambiare il palo, quello che c'è, palo d'acqua, gli metto un tubo nuovo in modo che faccia più massa e sono più tranquilla. Ma ce l'abbiamo tutti, tutte e quattro quadri ce l'abbiamo. Mi sembra, ce l'ha Marco c'ha il modello Mitra. Io ho la Sirio come la tua. E poi ce l'ha anche un'altra persona che l'ha precisa. Ce ne quattro ce ne sono, tutte uguali. Capito Antonello? Ti richiamo fra mezz'ora, tu che sto andando da mangiare a Simona. Ah, fra mezz'oretta, dai. Vabbè, sei intrusivo.